meiner Liter geht's oder von der Wanne, wie's dich schon. Da wirst du kein Schön und Dorn, für Noten und Sonne, mein Rest ist schon da. Wie man nun und aber nie, der Mock und am Epur, mach ich fast dran. Purtroppo in Sonata, Raffi, die Baba, sie schon benze, frate, mein Mann. Wow, no pain, no gain, dato un decel, fatta forza nessuno da difende. Per Cristo Gesù, frate, tante capelle, ma radamo meglio posto dall'inferno. Si ma chiedi là, canto cinema do film, se facciamo tiff per l'antagonista. Tu riesci di volo, sotterranno coppa pista, già fa son gallego, stesso solo son gattista. Tenga valore, non tenga no prezzo, tenga disprezzo, che sorda da catto l'amore, ma da catto sesso. Ricordate da catto tempo, da catto Rolex. O male, ma è una cosa, mi è rimasto impresso, per se salva canna leggere la Bibbia, ma tenere no prezzo. Su sempre stessi, a gente che cagna torno, perché si sotto, ma vita son d'accordo. Piglio una scarpa e te grido da sua posto, paga un premio, non mi bozza che t'ha morto. So come vivo e so come me ne andrò, il mio nome è in granito e un abito Tom Ford. E se c'è un paradiso per quelli come noi, dentro i tubolari, gli amici poi tumulati. Amo la pioggia, cancella gli indizi, ma i vizi sono accumulati. Accumulati, dai nostri traumi siamo acuminati, feriamo gli altri. Ed io ho perso già più di un fratello, però ho preso un castello per i miei fantasmi. L'estratto conto mio è alto, ma ancora stretto contatto. Sta razza infame, neanche piragna si mangiano uno con l'altro. Colto in flagranza, questa fragranza non toglie il puzzo di fame. Infrangi il codice, errata, corrige, rendilo un buon affare. È tardi ormai per pregare, è tardi e lei fa la fredda. Io ho appena stato dentro di lei e c'è meno di ciò che pensa. Ehi, siamo circondati, ma arrendersi è il vero crimine. Il piombo non è commestibile, il mondo tuo è su un dirigibile. Tu sembo stessi a gente che cagna torno, perché si sotto, ma vita sono d'accordo. Piglio una scarpa e